Capitolo 23. Elizabeth sedeva con la madre e le sorelle, meditando su quanto aveva udito in dubbio se fosse autorizzata a parlarne, quando comparve Sir William Lucas in persona, inviato dalla figlia ad annunciare alla famiglia Bennet il dì del fidanzamento. Con molti convenevoli e molto compiacimento all'idea di una prossima parentela fra le due famiglie, egli rivelò l'avvenimento a un uditorio non soltanto meravigliato, ma incredulo. La signora Bennet, infatti, con maggiore perseveranza che educazione, protestò che gli doveva essere assolutamente in errore e Lydia, sempre sventata e spesso sgarbata, esclamò ad alta voce: «Santo cielo, signor William, come può raccontarci una frottola del genere? Ma non lo sa che il signor Collins vuole sposare Lizzie?» Solamente la magnanimità di un uomo di corte poteva sopportare senza adirarsi un trattamento di tal fatta. Ma la buona creanza non abbandonò Sir William un istante e, pur sostenendo la veridicità delle proprie asserzioni, ascoltò tutte le loro impertinenze con la più conciliante cortesia. Elizabeth, sentendo suo dovere di toglierlo da una situazione così spiacevole, si fece allora avanti per confermare il suo racconto, accennando a quanto ella aveva saputo da Charlotte stessa, e cercò di frenare le esclamazioni della madre e delle sorelle, felicitandosi con molta serietà con Sir William. A lei si unì prontamente Jane e insieme fecero una quantità di osservazioni sulla felicità che ci si poteva attendere da quel matrimonio, sull'eccellente carattere del signor Collins e sulla comoda distanza fra Hensford e Londra. La signora Bennet era davvero troppo sopraffatta per poter dire un granché presente a Sir William, ma egli non le aveva quasi ancora lasciate che i suoi sentimenti trovarono un rapido sfogo. Prima di tutto, ella si ostinava a non credere un bel nulla di tutta quella faccenda. In secondo luogo, era sicurissima che il signor Collins era stato raggirato. Terzo, era convinta che non sarebbero mai stati felici insieme. E quarto, poteva ancora darsi che il matrimonio andasse a monte. Comunque, da tutto ciò si potevano trarre facilmente due deduzioni. Una, che Elizabeth era la vera causa di tutto il malanno, e l'altra, che lei stessa era stata trattata in modo barbaro da tutti loro. E su questi due punti insiste principalmente per il resto della giornata. Nulla poté consolarla e nulla calmarla. Nel suo risentimento passò con quella giornata. Trascorse una settimana prima che potesse vedere Elizabeth senza farle dei rimbrotti e ci volle un mese prima che potesse rivolgere la parola a Sir William o a Lady Lucas senza essere scortese e molti poi prima che potesse pensare a perdonare la loro figliola. Lo stato d'animo del signor Bennet si mantenne in quell'occasione molto più sereno ed egli ebbe anzi a dichiarare di aver avuto impressioni molto piacevoli. Gli era stato infatti gradito, disse, scoprire che Charlotte Lucas, che era abituato a ritenere abbastanza di buon senso, era sciocca quanto sua moglie, più sciocca delle sue figliole. Jane si dichiarò un pochino sorpresa di quell'unione, ma parlò meno del proprio stupore che del suo fervido augurio di felicità per loro. Né Elizabeth riuscì a convincerla di considerare tale felicità come improbabile. Catherine e Lydia si guardavano bene dall'invidiare la signorina Lucas, dato che il signor Collins non era altro che un pastore e la faccenda non le toccava se non come notizia da diffondere in merito. Lady Lucas non poteva rimanere insensibile al trionfo di poter rinfacciare alla signora Bennet la consolazione di avere una figlia ben maritata e si recò a Longbourn con maggiore frequenza del solito per manifestare tutta la sua felicità nonostante che le occhiate storte e le uscite di cattivo gusto della signora Bennet fossero sufficienti a togliere ogni soddisfazione. Fra Elizabeth e Charlotte si era stabilito un riserbo che le faceva entrambe tacere al riguardo ed Elizabeth si sentiva sicura che nessun rapporto di vera confidenza avrebbe più potuto sussistere fra loro. La delusione provata nei confronti di Charlotte la fece volgere con più tenero affetto verso la sorella, convinta com'era che la sua opinione sulla rettitudine e la delicatezza di sentire di questa non avrebbe mai potuto essere smentita, e ogni giorno più preoccupata per la sua felicità, già che era ormai passata una settimana dalla partenza di Bingley e non si era più saputo nulla del suo ritorno. Jane aveva subito risposto alla lettera di Caroline e contava i giorni che potevano ragionevolmente mancare prima della risposta. La promessa lettera di ringraziamento del signor Collins arrivò il martedì, indirizzata al padre e scritta con tanta solenne gratitudine quanto avrebbe potuto ispirarne un soggiorno di 12 mesi presso la famiglia. Dopo essersi scaricato la coscienza da quel lato, egli proseguiva, informandoli con molte estatiche espressioni della sua soddisfazione per aver ottenuto l'affetto della loro amabile vicina, la signorina Lucas. Spiegava quindi che soltanto allo scopo di godere della sua compagnia egli era stato così pronto ad accogliere il loro cortese desiderio di rivederlo a Longbourn, dove sperava di far ritorno il lunedì a 15. Giacché Lady Catherine, soggiungeva, aveva così caldamente approvato il suo matrimonio da desiderare aver luogo il più presto possibile. La qualcosa egli confidava avrebbe fornito un argomento irrefutabile alla sua gentile Charlotte per fissar presto il giorno che doveva far di lui il più felice dei mortali. Il ritorno del signor Collins nello Herefordshire cessò di essere argomento di gioia per la signora Bennet, anzi, ella era ormai incline a dolersene non meno del marito. Era piuttosto strano che gli dovesse venire a Longbourn anziché a Villa Lucas, era addirittura sconveniente, anzi ed estremamente fastidioso. Non poteva soffrire di avere ospiti in casa mentre la sua salute era così cagionevole e di tutti gli innamorati erano certo le persone più insopportabili. Queste erano le lamentele fatte in sordina dalla signora Bennet, lamentele che cedevano soltanto davanti all'ancora maggiore disperazione per la prolungata lontananza del signor Bingley. A questo proposito, né Jane né Elizabeth si sentivano a loro agio. Trascorse un giorno dopo l'altro senza portare di lui altre nuove, se non la voce che ben presto prevalse a Meryton nel prolungarsi della sua assenza da Netherfield per tutto l'inverno. Tale voce mise fuori di sé la signora Bennet, che non mancò mai di smentirla come la più scandalosa menzogna. Persino Elizabeth cominciò a temere, se non proprio l'indifferenza di Bingley, quantomeno che le sue sorelle fossero riuscite a tenerlo lontano, e benché per nulla incline ad ammettere una supposizione del genere, così disastrosa per la felicità di Jane e così disonorevole per la fedeltà del suo innamorato, non poteva fare a meno di pensarci spesso. Gli sforzi riuniti delle sue due sorelle senza cuore e del suo prepotente amico, aiutati dalle attrattive della signorina Darcy e dai divertimenti di Londra, potevano aver ragione e la temeva della forza del suo sentimento. Quanto a Jane, la pena di questa incertezza era per lei naturalmente più angosciosa che per Elizabeth, ma non desiderava altro che nascondere i propri sentimenti, per cui fra lei ed Elizabeth non si faceva mai allusione all'argomento. Ma poiché analoga delicatezza non teneva freno alla madre, era raro che volgesse un'ora senza che questa parlasse di Bingley, esprimendo la propria impazienza per il suo arrivo, giungendo persino a chiedere a Jane di ammettere che qualora egli non fosse più tornato, ella si sarebbe ritenuta trattata proprio male. Ci voleva tutta la mite costanza di Jane per sopportare quegli attacchi con sufficiente calma. Il signor Collins tornò puntualissimo il lunedì a 15, ma non fu ricevuto a Longbourn con tutta quella buona grazia che gli era stata dimostrata alla sua prima venuta. Egli si sentiva troppo felice, tuttavia, per aver bisogno di molta attenzione e, fortunatamente, per gli altri le sue occupazioni di corteggiatore li sollevavano molto dalla sua compagnia. La maggior parte del giorno la passava a Villa Lucas e talvolta rientrava a Longbourn solamente in tempo per scusarsi della sua assenza prima che i Bennet andassero a dormire. La signora Bennet si trovava realmente in condizioni pietose. Il minimo cenno a qualsiasi cosa concernente quel matrimonio la faceva morire di irritazione e ovunque andasse era sicura di sentirne parlare. La vista della signorina Lucas le riusciva odiosa, la guardava con un rancore pieno di gelosia, come colei che era destinata a succederle in quella casa. Ogni volta che Charlotte veniva in visita, ella concludeva che volesse così anticipare l'ora del possesso e ogni volta che la vedeva parlare sottovoce al signor Collins, era persuasa che parlassero della tenuta di Longbourn, meditando di cacciar di casa lei e le sue figliole appena fosse morto il signor Bennet. Di tutto ciò si doleva amaramente col marito. Davvero, Bennet, è troppo duro pensare che Charlotte Lucas dovrà diventare un giorno padrona di questa casa, che io sarò costretta a farcela entrare e che dovrò vivere abbastanza per vederla prendere il mio posto. Non abbandonarti a così lugubri pensieri, mia cara. Speriamo nel meglio. Lusinghiamoci al pensiero che possa essere io a sopravviverti. Non era un argomento molto confortante per la signora Bennet questo, e perciò invece di rispondere continuò sullo stesso tono. Non posso adattarmi all'idea che debbano avere tutta questa proprietà. Se non fosse per la questione dell'eredità vincolata, non me ne importerebbe. Di che cosa non te ne importerebbe? Non mi importerebbe di nulla. Siamo grati al cielo che tu sia preservata da uno stato di tale insensibilità. Non posso mai essere grata al cielo per nulla che riguardi questo vincolo, caro Bennet. Come si fa ad avere la coscienza di vincolare una proprietà se non alle proprie figliole? Non riesco a capire. E tutto questo ancora a beneficio del signor Collins, perché proprio lui deve avere più di tutti gli altri. Questo lo lascio stabilire a te, rispose il signor Bennet. Capitolo 24. Giunse la lettera della signorina Bingley a porre fine a ogni dubbio. Già la prima frase dava la certezza della loro sistemazione a Londra per l'inverno e concludeva col rammarico del fratello per non aver avuto tempo di presentare i suoi ossequi ai suoi amici dello Herefordshire prima di lasciare la campagna. Cadeva così ogni speranza, senza remissione, e quando Jane poté prestare attenzione al resto della lettera, vi trovò poco che potesse recarle conforto, all'infuori delle proteste d'affetto da parte della scrivente. La lettera era essenzialmente infarcita dell'elogio della signorina Darcy. Vi si insisteva nuovamente sulle sue molte attrattive e Caroline si dichiarava tutta lieta della loro accresciuta intimità, arrischiandosi a prevedere esauditi i voti che aveva manifestato nel suo scritto precedente. Inoltre, parlava con molto entusiasmo del fatto che suo fratello era intimo in casa del signor Darcy e accennava a rapita a vaghi progetti di quest'ultimo per certo mobilio nuovo. Elizabeth, alla quale Jane comunicò il succo di tutto ciò, stette ad ascoltare tacitamente indignata, col cuore diviso fra la preoccupazione per la sorella e il risentimento contro tutti gli altri. Non dava credito all'asserzione di Caroline, essere cioè suo fratello invaghito della signorina Darcy. Non dubitava, ora più che per il passato, che gli volesse veramente bene a Jane, ma nonostante la simpatia, che era sempre stata inclina a provare per lui, non riusciva a pensare senza irritazione, per non dire senza disprezzo, a quella sua malleabilità di carattere, a quella mancanza di decisione che lo rendevano adesso schiavo dei piani dei suoi amici, inducendolo a sacrificare la propria felicità al capriccio delle loro inclinazioni. E poi, se soltanto la sua felicità fosse stata l'oggetto del suo sacrificio, gli si sarebbe potuto permettere di trastullarsi con essa nel modo che più gli talentava. Ma in ciò era coinvolta la felicità di sua sorella e pareva ad Elizabeth che egli non potesse fare a meno di rendersene conto. Insomma, era un argomento su cui c'era molto da riflettere, anche se le riflessioni non sarebbero giovate a nulla. Ella non sapeva pensare ad altro, eppure che il sentimento di Bingley si fosse realmente spento o che fosse stato soffocato dall'intromissione dei suoi amici, che egli si fosse accorto dell'attaccamento di Jane o che questo fosse sfuggito alla sua osservazione. In qualunque caso, e benché l'opinione di lei nei suoi confronti dovesse venire sostanzialmente mutata dall'alternativa, la situazione di sua sorella restava la medesima. La sua pace era ugualmente sconvolta. Passò qualche giorno prima che Jane trovasse il coraggio di parlare dei propri sentimenti ad Elizabeth, ma finalmente, dopo che la signora Bennet le ebbe una volta lasciate sole in seguito a uno sfogo più lungo del solito circa Netherfield e il suo padrone, non poté fare a meno di esclamare. Se la mia cara mamma sapesse controllarsi di più, non puoi immaginare il male che mi fa con tutte quelle continue considerazioni su di lui. Ma non voglio lamentarmi, non durerà a lungo, lo dimenticherò e torneremo ad essere come prima. Elisabeth guardò la sorella con sollecitudine incredula, ma non disse nulla. Tu metti in dubbio le mie parole, soggiunse Jane, arrossendo leggermente, ma non ne hai motivo. Può darsi che in futuro io mi ricordi di lui come dell'uomo più amabile che io abbia conosciuto, ma questo sarà tutto. Non ho nulla per cui sperare o temere e nulla di cui rimproverarlo. Grazie a Dio quel dolore almeno mi ha risparmiato. Un pochino di tempo, perciò, farò certo del mio meglio. E tosto soggiunse con voce più ferma: Ho già adesso questo conforto che non è stato altro che un errore di immaginazione e che non hanno acciuto ad altri che a me. Jane, cara, esclamò Elizabeth, sei troppo buona. La tua dolcezza, la tua abnegazione sono veramente angeliche. Non so che cosa dirti. Mi pare di non averti mai reso giustizia, né di averti mai voluto tutto il bene di cui sei degna. Jane si affrettò a negare qualsiasi merito particolare e ricambiò alla sorella la dichiarazione di vivissimo affetto. Ma no, fece Elizabeth, non è giusto. A te piace credere il mondo intero rispettabile e ti senti offesa se io parlo male di qualcuno. A me invece piace pensare che tu sola sei perfetta e tu ti dimostri contrariata. Non temere che io esageri o che voglio usurpare a te la prerogativa della benevolenza universale. Non ce n'è bisogno. Sono poche le persone a cui io voglio veramente bene e ancor meno sono quelle di cui io nutro una buona opinione. Più conosco il mondo. E meno ne sono entusiasta. Ogni giorno che passa mi conferma nel mio giudizio sull'instabilità dei caratteri e sullo scarso affidamento che va fatto su ciò che può apparire merito o indegno. Ne ho avuto due esempi di recente, di uno preferisco non parlarne. L'altro è il matrimonio di Charlotte. È incredibile, sotto ogni aspetto è proprio incredibile. Mia cara Lizzie, non abbandonarti a sentimenti del genere, rovineranno la tua felicità. Tu non tieni abbastanza conto della diversità di congiunture e di caratteri. Considera la rispettabilità del signor Collins e il carattere posato, solido di Charlotte. Ricordati che lei proviene da una famiglia numerosa, che quanto a patrimonio, Collins è un ottimo partito. E sii pronta a credere, per amor di tutti, che ella può ben provare qualcosa di simile all'affetto e alla stima per nostro cugino. Per farti piacere, mi sforzerei di credere a qualunque cosa. Ma non lo farei per amore di nessun altro, poiché se fossi persuasa che Charlotte ha dell'affetto per lui, non farei che giudicare la sua intelligenza peggio di quanto ora non giudichi il suo cuore. Jenny mia, il signor Collins è un essere tronfio, solenne, limitato, uno sciocco. Tu lo sai quanto me, e anche tu devi sentire come me che la donna che lo sposa non può avere il cervello a posto. E tu non devi difenderla, anche se si tratta di Charlotte Lucas. Non devi! Per amore di una sola persona, cambiare il significato ai termini principio e rettitudine, né devi sforzarti di convincere te o me che egoismo equivale a prudenza e che l'incoscienza del pericolo è una garanzia di felicità. Devo ritenere il tuo linguaggio troppo energico nei confronti di tutti e due, rispose Jane, e spero che te ne persuaderai vedendoli felici insieme. Ma basta di ciò. Hai fatto allusione a qualche altra cosa. Hai accennato a due esempi. Non posso non comprenderti, ma te ne supplico, Lizzie cara, non affliggermi col pensare che sia da biasimare quella persona o col dirmi che egli è decaduto nella tua stima. Non dobbiamo essere così pronti a ritenerci intenzionalmente offesi. Non possiamo aspettarci che un uomo gentile e pieno di vita sia sempre così cauto e controllato. Spesso non è altro che la nostra vanità ad ingannarci. Le donne si immaginano che l'ammirazione significhi più di quanto in realtà non sia. E gli uomini fanno di tutto per incoraggiarli in questa supposizione, se lo fanno per uno scopo preciso. Non possono essere giustificati, ma io non credo che il mondo sia così pieno di tutti quegli intrighi che taluni si immaginano. Mi guardo bene dall'attribuire alcuna parte della condotta del signor Bingley a un disegno prestabilito, protestò Elizabeth. Ma ci può essere errore e sofferenza anche senza che ci sia intenzione di recar danno e di rendere infelici gli altri. Bastano per questo la spensieratezza, la mancanza di riguardo ai sentimenti altrui o l'indecisione. Imputeresti dunque la caduta a una di queste ragioni? Sì, all'ultima. Ma se continuo ti farò dispiacere dicendoti quello che penso di persone che tu stimi. Fermami finché sei in tempo. Persisti dunque nel supporre che le sue sorelle lo influenzino? Sì, insieme col suo amico. Io non ci posso credere. Perché dovrebbero tentare di influenzarlo? Non possono desiderare che la sua felicità, e se egli vuol bene a me, nessun'altra donna sarà in grado di assicurargliela. Il tuo punto di partenza è sbagliato. Esse possono desiderare molte altre cose oltre la sua felicità. Possono augurarsi che accresca la sua agiatezza e migliori la sua posizione sociale. Possono augurarsi che sposi una ragazza che abbia un patrimonio cospicuo, relazioni importanti e orgoglio di schiatta. Non c'è dubbio. Loro si augurano che egli scelga la signorina Darcy, rispose Jane. Ma forse questo desiderio è dettato da sentimenti migliori di quelli da te supposti. La conoscono da molto più tempo di me. Non stupisce che abbiano più simpatia per lei. Ma quali che siano i desideri loro, è molto improbabile che siano in contrasto con quelli del fratello. Qual è la sorella che si riterrebbe in diritto di avversare un fratello se non per ragioni molto serie? Se lo credessero affezionato a me, non cercherebbero di separarci. Se lui lo fosse, non ci riuscirebbero. Col presupporre un sentimento del genere, tu fai parer tutti anormali ed ingiusti e fai soffrire terribilmente me. Non tormentarmi con questa idea. Non mi vergogno di essermi sbagliato, almeno questo è poco nulla in confronto a ciò che proverei pensando male di lui o delle sue sorelle. Lasciami prendere le cose nella luce migliore. Nella luce in cui tutto può essere compreso. Elizabeth non poteva opporsi a un tale desiderio, ed allora il nome del signor Bingley non fu quasi più menzionato fra loro. La signora Bennet continuò a meravigliarsi e a dolersi del suo mancato ritorno e sebbene non passasse giorno, si può dire, senza che Elizabeth ne offrisse una chiara motivazione, sembrava che ci fosse poca speranza che la avesse a considerare la cosa con minor perplessità. Sua figlia si sforzava di persuaderla di ciò che non credeva ella stessa, e cioè che le attenzioni che gli aveva usato a Jane erano state soltanto affetto di una semplice e passeggera simpatia, spentasi col venir meno della sua presenza. Ma quantunque lì per lì ammettesse come probabile quella spiegazione, ogni giorno aveva da ripetere la stessa storia. La massima consolazione della signora Bennet era che il signor Bingley sarebbe ritornato per l'estate. Il signor Bennet prese la cosa in modo diverso. «Ebbene, Lizzie», le disse un giorno, «mi risulta che tua sorella ha dei dispiaceri amorosi. Me ne felicito con lei». Subito dopo l'idea di sposarsi, quello che piace di più a ogni ragazza è avere ogni tanto un po' di pene d'amore. È cosa che le occupa i pensieri e le conferisce fra le compagne una specie di distinzione. Quando sarà la tua volta? Non sopporterei a lungo di vederti superata da Jane. Ora tocca a te. Ci sono qui a Meryton abbastanza ufficiali da dar delusioni a tutte le signorine della contrada. Scegliti Wickham. È un giovanotto simpatico e non mancherebbe di piantarti. Grazie, babbo, ma mi accontenterei di un giovane meno affascinante. Non tutte possiamo aspettarci la fortuna di Jane. È vero? Comunque è confortevole pensare che qualunque cosa di questo genere ti accada, hai una tenera madre che non mancherà di dare all'accaduto il massimo rilievo. La compagnia del signor Wickham fu di graditissimo aiuto per scacciare la tristezza che gli ultimi avvenimenti avevano gettato in molti membri della famiglia di Longbourn. Lo vedevano spesso e alle altre sue qualità si aggiunse ora quella della massima franchezza. Tutto ciò che Elizabeth aveva già sentito, le sue lagnanze sul conto di Darcy e tutto quel che per causa sua egli aveva dovuto soffrire, era ormai cosa tutti nota e pubblicamente discussa. E tutti erano soddisfatti di pensare quanto avessero sempre avuto a noia il signor Darcy prima di sapere alcunché di quella storia. La signorina Bennet era l'unica creatura capace di pensare che potevano esservi circostanze attenuanti nella faccenda, sconosciute alla società dello Herefordshire. Il suo mite fermo candore era sempre pronto a compatire, a intravedere la possibilità di un errore, ma da tutti gli altri il signor Darcy veniva condannato come il peggiore degli uomini.